l'anno che verrà. Buona giornata a tutti da Anna Rita D'Ambrosio e da Enrico Pagliarini. Come ogni anno noi vi accompagniamo, mano nella mano Enrico, alla scoperta degli avvenimenti, quelli già previsti ovviamente. Sì, esatto, abbiamo una sfera di cristallo che però fa vedere, mostra solo le cose che sono prevedibili. Tutto il resto lo ascolterete nei giornali radio, nei programmi di Radio 24 durante tutto l'anno. Abbiamo molti ingredienti. Stiamo entrando da poche ore nel terzo decennio di questo nuovo secolo, di questo nuovo millennio. Sono successe già tantissime cose, chissà quante ne succederanno ancora. Abbiamo pensato che forse la cosa più importante di quest'anno sarà un'elezione. Un'elezione che non avviene in Italia, ma avviene verso la fine di questo 2020, oltreoceano, ed è l'elezione americana, quella prevista il 3 novembre. Quindi il primo ospite che ringraziamo è il nostro corrispondente da New York del Sole 24 Ore, Riccardo Barlam. Ciao Riccardo. Ciao a tutti. Così le elezioni americane si terranno il 3 novembre 2020, cadono di consuetudine il martedì successivo al primo lunedì di novembre. Peraltro aggiungo da podista che il primo novembre ci sarà la 50ª maratona di New York. Quindi insomma... Donald Trump cerca il secondo mandato e le probabilità che ci riesca sono al momento abbastanza elevate. Pensate che dal secondo dopoguerra ad oggi solo in due occasioni i presidenti americani non sono riusciti a conquistare il secondo mandato. Non ci riuscì il democratico Jimmy Carter nel 1980 quando vinse Reagan, perché fu penalizzato dal forse vi ricordate lontanamente la storia degli ostaggi americani, sì, in Iran, e fallì l'operazione per liberarli, morirono 8 militari americani, fu una tragedia, e poi anche perché ci fu un incidente in una centrale atomica a Three Mile Island. E l'altra volta non riuscì, l'altra volta che non è riuscito il secondo mandato, George Bush padre, che travolto dalla crisi economica alla fine non riuscì a conquistare il secondo mandato e vinse Clinton. E affidarsi, però Riccardo, scusami, insomma, quest'ultima fase del 2019 per Trump non è stata eccezionale, l'impeachment, l'Ukraina Gate, insomma ce ne sono tante di cose, eppure tu dici che secondo mandato ci sta. Allora, adesso a inizio anno si svolgerà il processo vero e proprio per la messa in stato di accusa di Trump al Senato, ma le probabilità che possa concludersi con un voto favorevole per Trump sono abbastanza remote, perché ci vogliono 67 voti, cioè i due terzi del Senato, che è composto da 100 persone. E i democratici sono 45 più due indipendenti, e gli altri sono senatori repubblicani. Quindi per avere questa maggioranza dei due terzi dovrebbero votare almeno una ventina, una quindicina di repubblicani con i democratici, e la cosa è abbastanza al momento improbabile. Poco probabile. Senti, perché abbiamo scelto di comune accordo di mettere in testa al nostro programma questo tema dell'elezione del presidente americano? Ci sono vari equilibri che potrebbero essere mantenuti. Oddio, con Trump non si può prevedere quasi nulla, perché basta un tweet o magari un contro tweet la mattina dopo e tutto cambia, però ci sono una serie di equilibri o squilibri che potrebbero cambiare o essere mantenuti in base poi alla riconferma o meno di Trump. Ah, assolutamente, di solito nell'anno elettorale l'economia americana rallenta un pochino, perché l'attività legislativa rallenta, anche l'attività del governo, e quindi tante cose che sono sullo sfondo, quindi per esempio la guerra commerciale con la Cina, oppure la Brexit, il nuovo accordo commerciale con gli Stati Uniti, per quella special relationship che esiste dai tempi di Churchill, ma a questo punto gli inglesi sperano che diventi ancora più stretta, perché uscendo dall'Europa hanno bisogno di una partnership più forte degli americani. E poi c'è la questione dei dazi all'Europa, minacciata più volte da Trump, alle auto, al food, e nelle prossime settimane ci sarà la sentenza del WTO a favore, favorevole all'Europa, quindi che condannerà Boeing per gli aiuti di Stato, e a quel punto l'Europa, come ha fatto qualche mese fa Trump, potrà avrà diritto a mettere i dazi a sua volta sui prodotti americani. E poi c'è la nuova Commissione Europea, e quindi c'è questo nuovo accordo bilaterale commerciale che gli americani vogliono riscrivere e che la nuova Commissione dovrà in qualche modo negoziare, e sono tutte cose che ovviamente se dovesse poi non essere riconfermato nel secondo mandato Trump, cambierebbe il mondo, esatto. Perché la sua visione è assolutamente un po' diversa da tutti gli altri che lo hanno preceduto, sia repubblicani che democratici. E questo lo sappiamo. Riccardo, allora noi ti auguriamo buon lavoro, perché allora questo sarà un 2020 di grande lavoro per te. Buon lavoro. La Ligia è sempre pronta. Grazie Riccardo Barlam, corrispondente del Sole 24 Ore da New York. Vincenzo Miglietta invece sta a Roma, è il nostro collega della redazione romana. Vincenzo, benvenuto, buon anno anche a te. Grazie, un buon anno a tutti e ai nostri ascoltatori. Vincenzo, allora abbiamo augurato buon lavoro a Riccardo Barlam perché ci sarà da lavorare. Noi vogliamo sapere da te quanto ci sarà da lavorare anche per la politica italiana, perché una data c'è sicuramente, il 26 gennaio, una data prossima, sono le regionali dell'Emilia Romagna e della Calabria, che sono un test importante. Eh sì, un test importante. Faccio solamente un piccolissimo passo indietro. Annalita, dicevi ci sarà da lavorare, ma anche il 2019 è stato un anno importante per la politica. Allora, partiamo dal 26 gennaio. Voto in Emilia Romagna e voto in Calabria, soprattutto la prima regione. Sappiamo, quindi tra pochissime settimane sarà uno spartiacque proprio per la tenuta dell'attuale governo giallo-rosso, chiamiamolo così, perché qualora una regione così storicamente governata dal centrosinistra dovesse invece passare alla Lega con la candidata Borgonzoni, beh, sarebbe Annarita ed Enrico una bella spallata al governo attuale. Solitamente si dice i voti locali, regionali, non devono avere ripercussioni sul governo nazionale, ma penso proprio che in questo caso la musica sarebbe totalmente diversa. Per quanto riguarda la Calabria, sì, può essere un voto indicativo, ma sicuramente l'Emilia-Romagna sarà un test fondamentale per l'attuale esecutivo. Ci saranno altri appuntamenti che già possiamo prevedere oggi o tutto il resto è imprevedibile? Allora, tutto il resto non dico che sia imprevedibile, ma per quanto riguarda le elezioni regionali, probabilmente a fine maggio si dovrebbe avere un solo election day, ma molto ricco, perché pensate, si potrebbe votare nello stesso giorno per il rinnovo di Marche, Liguria, Campania, Puglia, Veneto e Toscana, per cui immaginiamo un terzo delle regioni italiane chiamate al voto. E poi si potrebbe, perché no, ipotizzare un ritorno al voto per questa legislatura? Beh, Conte più volte ha detto che l'attuale governo punta al 2023, ma certo, sappiamo tutti, è stato raggiunto il numero dei famosi 64 senatori che hanno chiesto che venga stoppato il famoso taglio dei parlamentari, e qualora dovesse passare questo referendum, certamente il governo avrebbe poca vita davanti a sé. Vincenzo, poi c'è anche la sentenza della Consulta che deve arrivare, quella sul quesito relativo alla legge elettorale, quello del Carroccio. Quindi, insomma, un po' di appuntamenti ci sono. È così, nel senso che anche questo quesito, Annarita, che citi tu è importantissimo, perché qualora si dovesse votare su questa richiesta della Lega, ricordiamo che punta ad abolire la quota proporzionale dell'attuale legge elettorale, quindi rimarrebbe solo la parte del maggioritario. A questo punto, se si dovesse andare al voto, il partito favorito sarebbe la Lega, perché a questo punto tutti i famosi cespugli cespugli non avrebbero senso. E quindi perché si dice sempre vi sarebbe un accordo sotterraneo tra i due Mattei? Perché a Matteo Renzi andare a votare con il maggioritario sicuramente non conviene, conviene andare al voto con l'attuale legge elettorale che comunque prevede una quota di sbarramento del 3%, facilmente superabile da Italia Viva, e quindi la riconferma di un certo numero di parlamentari nel futuro, nella futura legislatura, mentre di fronte ad una prova esclusivamente maggioritaria i piccoli partiti non avrebbero partita. Vincenzo, grazie per essere stato con noi, ti auguriamo buon anno, ti lasciamo ai tuoi festeggiamenti nella capitale. Auguri. Grazie, auguri anche a voi. 2020, anno di elezioni, dunque Enrico, elezioni oltreoceano, elezioni regionali al momento già fissate in Italia, anno decisivo anche sotto un altro aspetto, quello del clima. Esatto, quello del clima e dell'ambiente. Il 2020 avrebbe dovuto forse, scegliete il verbo che volete, essere l'anno di svolta, purtroppo difficilmente lo sarà. Laura Bettini, la nostra collega che si occupa tra le altre cose di ambiente, ciao Laura, benvenuta, bentornata e buon anno anche a te. Grazie, buon anno a voi, buon anno a tutti i nostri ascoltatori. Dicevi bene Enrico, diceva bene anche Anna Rita, sì, questo avrebbe dovuto essere un anno importante per il clima, se lo sarà lo vedremo solo nel corso dell'anno stesso. Si è conclusa da poco la COP25 di Madrid e sappiamo che l'esito non è stato certo dei migliori, non sono stati raggiunti gli obiettivi che ci si era prefissi. E perché erano tanti importanti questi obiettivi? Perché la COP26, quindi quella che si svolgerà nel corso del 2020, esattamente verso la fine dell'anno, come è stata questa, avrebbe dovuto sancire il passaggio dalla fase di applicazione del protocollo di Kyoto, che tutti noi abbiamo conosciuto nel corso degli anni, all'attuazione di un nuovo regime di impegni che erano quelli previsti nel 2015 a Parigi. Ora noi ci arriviamo senza avere questi impegni ben definiti e più che altro con l'evidente contrarietà di alcuni paesi ad assumersi, no, nuovi impegni per ridurre le loro emissioni, l'abbiamo appena visto. Quindi quello che succederà effettivamente a Glasgow, quindi siamo in Gran Bretagna, alla COP26, non è dato saperla al momento. Di certo sappiamo una cosa bella, cioè che Milano ospiterà la pre-COP, quindi due appuntamenti, la pre-COP, quindi quella dove si discute un po' e ci si prepara per andare a Glasgow in sostanza, e la COP dei giovani, che è la prima volta che si svolge, no, nella storia delle Nazioni Unite. I giovani probabilmente si metteranno d'accordo. I giovani si metteranno d'accordo, bisognerà visti con Greta Thunberg, no, protagonista sì, assoluta del 2019. Sicuramente, quindi lei è stata a Torino da poco, sicuramente insomma dovrebbe essere l'anno prossimo a Milano per questo incontro dei giovani. Ovviamente loro daranno degli indirizzi, faranno delle richieste, però bisogna vedere poi dopo chi li recepisce e come li recepisce, se al ribasso o al rialzo. Dacci, se è possibile, un pizzico di speranza. È plausibile, è possibile che nonostante non si mettano d'accordo le COP, questi grandi eventi, grandi congressi, sono delle riunioni gigantesche con un sacco di delegati e con quasi 200 paesi che devono discutere di questi e si devono impegnare a ridurre le emissioni. Potrebbe succedere che il mondo delle industrie e sulla spinta dei consumatori riesca a bypassare il mancato accordo internazionale? Allora, lo sta bypassando. La mia impressione è che lo stiano già bypassando sia le imprese, che per motivi diversi hanno cominciato a ridurre le emissioni, motivi anche economici e finanziari, questo, ma non ha importanza, il risultato conta. Esatto. D'altra parte ci sono molti movimenti dal basso e adesso ci sono anche molti movimenti religiosi che si stanno dando da fare in questo senso. Sappiamo tutti della Laudato Si di Papa Francesco, sì, no? Sì. Adesso quella è stata prima, nel 2015, perché era l'anno dell'Expo a Milano. Adesso ad esempio so che alla fine di maggio a Napoli ci sarà un grande raduno in cui i buddisti italiani, ma non solo quelli italiani, anche quelli che verranno dall'estero, si troveranno per parlare per l'appunto di tutela del pianeta. Ci sono varie azioni che sono state intraprese da comunità islamiche in Italia, quindi i movimenti dal basso si moltiplicano, i risultati arriveranno. Sarebbe bello se i governi seguissero le indicazioni dei popoli che tra l'altro rappresentano. Nel ringraziare Laura, io voglio ricordare che Enrico, l'ottimismo e Laura viaggiano insieme, perché lei è la conduttrice di Si può fare. Esattamente. Voglio dirvi un'ultima cosa che è molto carina. Questo sarà l'anno internazionale della salute delle piante. Quindi badiamo alle piante, ma non quelle di casa, qui si intende le colture. Le colture, ho letto, il 40% delle colture mondiali sono perse per parassiti. Pazzesco. Cibo che manca all'appello. Esatto. Grazie allora alla nostra Laura Bettini, che ritroverete con Si può fare. Abbiamo anche un programma che parla di ambiente e di piante, quello della nostra Roberta Pellegatta, alla quale auguriamo buon anno. Noi chiudiamo questa prima parte. Ci risentiamo tra pochi. L'anno che verrà. Riprendiamo questa puntata speciale. Oggi è il primo dell'anno, il primo giorno del 2020, che sarà, cara Anna Rita, un anno bisestile. Il che significa che alcuni festeggeranno il compleanno, il che non festeggiano febbraio. Da un po' di anni. Come sì. Carlo Genta, auguri. È uno di quelli che festeggia ogni 4 anni. Io sono Enrico Pagliarini, a fianco a me c'è Anna Rita D'Ambrosio. In questo 2020 accadranno molte cose, quelle prevedibili ve le stiamo raccontando. Ce n'è una che direi che quest'anno dovrebbe accadere, a questo punto sì. Questo è l'anno decisivo per sì. la Brexit. E sono 3 anni che se ne parla. Quattro. E quando parliamo di Brexit abbiamo un ospite fisso, che è il nostro Sergio Nava. Ciao Sergio. Ciao. Allora, nel giugno 2016 i britannici hanno votato. Se ripercorriamo la storia sembra quasi un film, ma insomma il 31 gennaio quanto è decisiva come data? Decisiva fino a un certo punto, nel senso che se guardiamo da un punto di vista formale, la Gran Bretagna lascia formalmente l'Unione Europea dopo 40 anni, oltre 40 anni di appartenenza, ed è anche il primo paese nella storia dell'ex comunità europea, comunità economica europea e Unione Europea che fa questa cosa e che, diciamo, prende questa decisione. Quindi ha sicuramente una valenza enorme da un punto di vista non solo simbolico, non solo formale, ma anche sostanziale. Se poi andiamo a vedere cosa accadrà nei fatti non succederà granché. Perché? Perché la Gran Bretagna non farà più parte del club, ma in tutto e per tutto resterà nel club, allineata con gli stessi regolamenti, allineata con le stesse normative, insomma sarà in questo club chiamato Unione Europea, pagando anche le relative quote, senza però avere alcun peso decisionale. Quindi se guardiamo alla libera circolazione dei cittadini e a tutto ciò che concerne la nostra vita di tutti i giorni, nei nostri interscambi, nei nostri rapporti con la Gran Bretagna, non cambierà nulla, semplicemente sarà un paese extracomunitario, ma in qualche modo ancorato formalmente all'Unione Europea. Dal gennaio 2021, se come vuole Boris Johnson, ci sarà effettivamente poi un nuovo trattato di partenariato, beh allora dal gennaio 2021 veramente andare in Gran Bretagna sarà diverso, vivere in Gran Bretagna sarà diverso, perché occorrerà richiedere un permesso, o per chi vuole, diciamo, fare turismo, per chi vuole viverci occorre un visto, insomma sarà tutto un po' più complicato. Quindi l'anno decisivo è il 2020, però nel 2021 vedremo gli effetti, vedremo sì. qualcosa. Gli effetti sostanziali, però dal primo febbraio la Gran Bretagna sarà un paese extracomunitario in ogni caso, perché avrà lasciato l'Europa. Che poi resti allineata ai regolamenti, alle normative attuali, è un qualcosa di dovuto per dare tempo, poco tempo tra l'altro, per varare, preparare un nuovo trattato di partnership. Ma questi 4 anni secondo te sono stati tanti? Erano prevedibili quando si è votato nel 2016? Beh, che un paese lasci l'Unione Europea è comunque una prima assoluta, e quindi è stato sicuramente un esperimento, tra virgolette, un po' per tutti, perché si è trattato di capire quanto sia anche semplice lasciare o meno l'Unione Europea. Non era mai successo prima. Va detto che nel caso della Gran Bretagna abbiamo un problema molto forte chiamato Irlanda del Nord, perché con tutto il passato di scontri, di violenze, di guerre che c'è stato, chiaramente si è andati a toccare un nodo, un punto molto molto molto sensibile all'interno della storia recente europea. Quindi è stato sicuramente sottovalutato questo punto fin dall'inizio, ed è quello che poi ha trascinato l'intera questione ben oltre il previsto. Grazie a Sergio Nava. Grazie a voi. La Brexit, quindi l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, avrà sicuramente conseguenze, non sappiamo quali, sui mercati finanziari. Allora, per capire che cosa succederà in generale sui mercati finanziari, almeno quello che è prevedibile in questo 2020. È con noi Moria Longo dalla redazione Finanza del Sole 24 Ore. Moria, buon anno e benvenuto. Buon anno, grazie, buon anno a tutti. Speriamo sia un buon anno anche sui mercati finanziari. Brexit è una delle variabili che potrebbero giocare sui mercati finanziari nel 2020. Dipende che Brexit sarà, per cui è impossibile prevedere oggi che impatto possa esserci sui mercati, perché se fosse una Brexit normale con un accordo, come tutti speriamo che sia, com'è, allora sui mercati finanziari potrebbe addirittura esserci un motivo di sollievo, come ha dimostrato la sterlina quando ha vinto le elezioni Boris Johnson, che è salita. Se invece ci fosse un hard Brexit, una situazione ben diversa, allora sul contraccolpo sui mercati ci potrebbe essere, ma dirlo oggi è impossibile. Al di là di Brexit forse c'è un grande tema che riguarda anche il 2020 e riguarda l'equilibrio mondiale che è mantenuto dalle banche centrali, che hanno avuto un ruolo importantissimo, ne abbiamo parlato tantissime volte a Radio 24, non solo in Europa, perché sappiamo molto bene quello che ha fatto negli ultimi anni la Banca Centrale Europea, ma direi in tutto il mondo. Questo 2020 come sarà da questo punto di vista? Ecco, questa è la grande domanda sui mercati finanziari. Il 2019 è stato l'anno del rally di tutto. Nel 2019 Wall Street ha toccato i massimi storici più volte, le borse europee sono sui massimi storici, ma hanno vinto, hanno guadagnato tutti i tipi di investimento, sia i beni rifugio, sia i titoli rischiosi, quindi hanno vinto le borse, ma hanno vinto anche l'oro è salito tantissimo, i titoli di Stato sono saliti tantissimo. Cosa non normale, perché solitamente quando le cose vanno bene nell'economia la gente vuole rischiare, quindi vanno bene le borse, vanno male i beni rifugio, quando invece la situazione economica peggiora, di solito la gente si rifugia sui beni rifugio e vende le borse, ma che entrambi vadano bene è strano. Tra l'altro nel 2018 erano andati male entrambi, erano andati male tutto, perché il motivo è proprio legato alle banche centrali, che nel 2018 si erano ritirate creando il panico sui mercati, nel 2019 sono tornate pesantemente in campo. 16 banche centrali mondiali hanno tagliato i tassi nel 2019 e la BCE è ripartita con il quantitative easing, quindi iniettando liquidità. La Federal Reserve non solo ha tagliato i tassi, ma ha iniettato molta liquidità sul mercato per un altro motivo legato al mercato interbancario, ma l'ha fatto, e questo ha creato il rally di tutto. Il problema è, a questo punto cosa succede? Il rally delle borse e dei mercati finanziari nel 2019 è un rally, io lo chiamo un rally dei piedi d'argilla, perché è basato su questa grande liquidità, ma in realtà con un'economia che nel 2019 non è andata molto bene, anche se meglio del previsto, ma è andata comunque mal, rallentato, con utili aziendali che sono calati, anche se meno del previsto, ma sono molto calati. Allora noi abbiamo una situazione, per esempio negli Stati Uniti, dove le imprese hanno un debito record, non c'è mai stato negli Stati Uniti un debito delle imprese così elevato, siamo al 75% del PIL, record storico, però gli utili calano. Il fatto che i tassi sono stati così bassi, a zero, pertanto ormai abbiamo 17 mila miliardi di titoli di Stato con rendimenti negativi, sì, forza gli investitori a rischiare tantissimo pur di avere un po' di rendimento, e quindi prestano soldi, comprano obbligazioni di aziende che in un mondo normale non emetterebbero mai aziende. Sì. Non emetterò mai debito, sì. La politica dei tassi a zero ha portato alla cosiddetta zombificazione dell'economia, cioè tante aziende che in un mondo normale sarebbero fallite, campano, vivono, emettono titoli obbligazionari, la gente li compra con grande passione. Certo, perché basta un rendimento dello 0,1 che piuttosto di zero è meglio. Esattamente, quindi, certo. E quindi questo sta creando una forte speculazione, grandi squilibri, che finché i tassi stanno bassi, finché le banche centrali iniettano liquidità, può darsi non accada nulla, ma questo è un grande punto di domanda. E quindi, guardando al 2020, è quale sarà la politica delle banche centrali, visto che ormai la BCE più o meno è a capolinea, più di tanto non può più fare, vedremo cosa farà la Federal Reserve, ma questo secondo me è la domanda clou del 2020. Moria, grazie e ancora un buon anno. A tutti, buon anno. Enrico, ai temi economici torniamo tra pochissimo. Io però voglio augurare buon anno anche alla nostra Marta Cagnola, alla quale abbiamo fatto una domanda ben precisa relativa ai film di questo 2020. Cosa troveremo nelle nostre sale? Quali film dobbiamo attendere per il 2020? A stilare il calendario più popolare ogni anno è IMDb, il database cinematografico più grande al mondo. La classifica è basata sulla popolarità dei film ad oggi, utilizzando dati accumulati da IMDb Pro tra visualizzazioni delle pagine e interazioni degli utenti. Ecco quindi la top 10 dal primo al decimo con la data d'uscita italiana. Di me dovrebbero avere paura! Non di te, non di Mr. J, perché io sono Harley Fottutissima Quinn. Chi è che se la sta spassando? State pronte, ragazze. Al primo posto c'è Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn. Il 6 febbraio esce questo spin-off di Suicide Squad. Poi, il 13 febbraio, Sonic, ovviamente il riccio alieno della siga tra animazione e live action. Top Gun Maverick, in estate, Tom Cruise torna a volare oltre 30 anni dopo. Al quarto posto il nuovo 007 No Time to Die, esce l'8 aprile. I used to have nothing. And then I got this job. This family. But nothing lasts forever. Black Widow il 22 aprile è il nuovo capitolo del Marvel Cinematic Universe. Poi il rifacimento live action di Mulan sarà in sala il 25 marzo. Wonder Woman 1984 il 4 giugno. Poi un altro remake ancora con Dune di Denis Villeneuve il 17 dicembre. The Kingsman le origini, la nascita del più segreto, raffinato ed elegante dei servizi segreti il 18 settembre chiude la top 10 Fast and Furious 9 in uscita il 21 maggio. Ovviamente la maggior parte di questi film appartiene al primo semestre proprio perché viene calcolata la popolarità e la promozione di molti film della seconda metà dell'anno non è ancora iniziata. Basti pensare a Tenet di Christopher Nolan in arrivo in estate o Gli Eterni, nuovo Marvel Studios in uscita a novembre. E gli italiani? All'uscita del supermercato ti ho incontrato. Carrello, lo faccio io. Ma no, perché? Non ce la fa. Lo faccio io. Aspetta. Al distributore di benzina. Metto io. Metto io. No, scusa, ascoltami. È il mio lavoro. Ovviamente il primo dell'anno e il film da battere al botteghino è il Tolo Tolo di Checco Zalone, ma il 9 gennaio esce anche Hammamet di Gianni Amelio con un mimetico Pierfrancesco Favino che interpreta il Bettino Craxi degli ultimi giorni. Attesissima l'opera seconda di Gabriele Mainetti, dopo lo chiamavano Gigrobò, arriva Freaks Out, che racconta quattro personaggi bizzarri nella Roma travolta dalla Seconda Guerra Mondiale. Luca Marinelli, esploso proprio con il film di Mainetti, sarà Diabolic nella pellicola dei Manetti Bros. Nel 2020 torna anche Nanni Moretti con Tre piani, adattamento del romanzo di Eshkol Nevo. Dopo il cinema ci occupiamo di quello che interessa le famiglie, tutti noi come consumatori. Valentina Melis dalla redazione del Sole 24 Ore. Benvenuto, buon anno anche a te. Buon anno anche a voi. Allora partiamo dalle famiglie, anche se gli ultimi dati dell'Istat di due giorni fa dicono che le famiglie sono sempre di più, ma sempre più piccoline. Comunque, quali sono le novità che ci attendono già a partire da oggi? Beh sì, proprio per incentivare le famiglie ad aumentare il numero dei propri componenti, la manovra per il 2020 potenzia alcuni bonus, in particolare il bonus bebè, che verrà riconosciuto anche a tutti i nati del 2020, senza soglie di reddito, sarà erogato per 12 mesi con un importo che varia da 80 a 160 euro in base alla situazione economica, cioè all'ISEE del nucleo familiare. Viene anche potenziato il bonus nido, che fino ad oggi era riconosciuto, diciamo, senza soglie ISEE, potrà arrivare fino a 3.000 euro e viene appunto potenziato in base alla situazione economica del nucleo familiare. Fino ad oggi era di 1.500 euro e in pratica, utilizzando la gradazione dell'ISEE, il bonus nido viene rinforzato. E un'altra norma che dovrebbe aiutare le famiglie è quella per estendere a 7 giorni il congedo obbligatorio per i neopapà. C'è una norma che riguarda poi, cambiando diciamo settore, passando dai figli alla RC auto, una norma abbastanza importante per cui ogni veicolo del nucleo familiare potrà ottenere la stessa classe di bonus malus maturata dal mezzo intestato al guidatore più virtuoso della famiglia. Aumenta la detrazione per le spese veterinarie, che sarà innalzata a 500 euro rispetto ai 387 di oggi, e aumenteranno anche le tasse sulla fortuna, cioè su Super Enalotto, Enalotto, Gratta e Vinci. Vabbè, questo lo lasciamo, diciamo, se uno vince poi lo scopre nel momento, quindi non anticipiamo nulla sulle tasse per le vincite. Allora, un altro argomento importante è quello della casa. Novità che riguardano le nostre case? Allora, dal 2020 viene resa permanente, diciamo, la cedolare secca, quindi la riduzione dal 15 al 10% dell'aliquota da applicare ai contratti di affitto residenziali a canone concordato nei comuni ad alta tensione abitativa, quindi uno sconto per chi affitta la propria casa. Vengono prorogate tutte le detrazioni sui lavori in casa, quindi fino al 31 dicembre 2020 vengono prorogate le detrazioni, quindi le agevolazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica sia al 65 sia al 50% e per ristrutturazione edilizia del 50% e per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici sempre al 50%. Arriva poi il nuovo bonus facciate, ovvero la detrazione del 90% per gli interventi anche di sola pulitura o tinteggiatura esterna per recuperare, per restaurare la facciata esterna degli edifici nelle zone più abitate delle nostre città. Esatto. Viene prorogato il bonus giardini e poi viene abolita la TARI. Quindi resterà soltanto l'IMU con un'aliquota di base pari all'8,6 per mille che può essere aumentata fino al 10,6 per mille. Ci sono delle novità che riguardano anche il mondo del lavoro. Poi parliamo brevemente di sanità e anche di giustizia, ma per quanto riguarda il lavoro, quali sono le novità per quest'anno? Allora, ci sono due nuovi bonus per le assunzioni. I bonus per le assunzioni sono una strada che è stata ampiamente percorsa dai governi degli ultimi anni per incentivare le assunzioni, quindi per aumentare il numero dei lavoratori. Essenzialmente sono due e tre se consideriamo l'estensione degli incentivi per gli under 35. Vengono azzerati praticamente i contributi da versare per chi assume apprendisti. Quindi per i primi tre anni i datori fino a 9 dipendenti, quindi piccoli datori di lavoro, se fanno dei contratti di apprendistato di primo livello, ricordiamolo, quello per la qualifica, l'apprendistato di primo livello, c'è uno sgravio contributivo totale per chi assume questi lavoratori nei primi tre anni di rapporto. Poi negli anni successivi al terzo l'aliquota contributiva resta comunque ridotta al 10%. Poi c'è il restyling del cosiddetto bonus cervelloni, che era stato istituito nel 2019 per chi assumeva laureati con 110 e lode o in possesso di un dottorato di ricerca, ma non è mai partito. La manovra quest'anno ha eliminato, diciamo, tutte quelle previsioni attuative che avevano finora frenato questa norma, che quindi può partire e prevede uno sgravio contributivo piuttosto robusto per chi assume questi lavoratori, cioè uno sgravio contributivo fino a 8.000 euro all'anno per chi assume questi lavoratori altamente qualificati, diciamo. E poi viene in pratica confermata anche per il 2019 e per il 2020 l'agevolazione contributiva destinata all'assunzione di under 35. Due cose riguardano le pensioni, le ricordo rapidamente. Nel 2020 possono ancora andare in pensione con l'opzione donna le lavoratrici che entro il 2019 hanno maturato 35 anni di contributi e 58 anni di età se dipendenti o 59 se autonome. Ricordiamo che l'assegno verrà calcolato col metodo contributivo, quindi con una decurtazione, diciamo, rispetto a quello che la lavoratrice avrebbe percepito non scegliendo l'opzione donna. E poi passa dal 97 al 100% l'adeguamento all'inflazione per le pensioni di importo superiore a 3 volte fino a 4 volte il trattamento minimo. Allora, fin qua molte buone notizie, non tutte erano buone notizie, anche per i conti dello Stato non tutte sono buone notizie. Parliamo della sanità. Sì, in sostanza la notizia fondamentale è l'abolizione del super ticket, cioè in attesa di rivedere tutta la materia della compartecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria, la legge di bilancio per il 2020 abolisce la quota fissa di 10 euro di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e per quegli assistiti che non siano esentati. Un'ultima cosa che vorremmo ricordarvi riguarda la giustizia, sperando che non vi serva questa notizia, però la diamo. Sì, è una notizia politicamente molto sensibile. Di fatto da oggi entra in vigore la riforma che elimina la prescrizione dopo la sentenza di primo grado. In pratica lo scorrere del tempo non causerà più l'estinzione del reato nelle cause dinanzi alle corti d'appello e alla Cassazione. Questo ovviamente è un piccolo breve sunto di alcune delle novità che riguardano noi come cittadini, le nostre famiglie, nel mondo del lavoro, quando andiamo magari all'ospedale. Dicevo una piccola parte perché voi avete selezionato 135 misure nuove nel Sole 24 Ore del lunedì che appunto è uscito 2 giorni fa. Valentina, grazie, a presto, buon anno. Grazie a te, Enrico. Enrico, allora un anno interessante, un anno di grandi novità. Abbiamo spaziato dai temi economici al cinema. E adesso abbiamo scelto alcuni appuntamenti, no? Sì, ci sono già un sacco di appuntamenti prestabiliti, programmati. Ne abbiamo scelti alcuni di carattere sportivo. Tra poco arriveremo allo sport. Adesso invece vogliamo raccontarvi due eventi che riguardano, li cataloghiamo sotto l'etichetta cultura, diciamo così? Ma insomma, il primo ci tengo particolarmente perché tutti i nostri radioascoltatori ricorderanno l'Expo di Milano. Ecco, sì, ne abbiamo parlato talmente tanto. Ecco, è stato un avvenimento importante per tutti i milanesi e per tutte le persone che l'hanno visitata. Sarà sicuramente un grande successo anche l'Expo di quest'anno, che si tiene, l'esposizione universale, a Dubai negli Emirati Arabi Uniti, ed è la prima volta in un paese del Medio Oriente. Si tiene dal 20 ottobre di quest'anno al 10 aprile del 2021 e coinvolge 180 nazioni. L'Italia punta ad essere uno dei protagonisti di questa edizione di Expo e la nostra Rosanna Magnano ne ha parlato con Paolo Glisenti, che è il commissario generale per l'Italia ad Expo 2020 Dubai. È un Expo, quella di Dubai, che segna un cambiamento profondissimo nei grandi eventi internazionali. In che modo? Soprattutto per l'aspetto generazionale dei visitatori. All'Expo di Dubai vedremo una popolazione di visitatori per il 70-80% sotto i 40 anni di età. Seconda ragione di discontinuità rispetto a Milano, che avremo un 70% di visitatori provenienti da paesi esterni al paese ospitante, quindi da paesi che non sono gli Emirati Arabi, ma sono tutti gli altri paesi del Golfo, naturalmente, ma soprattutto il sud-est asiatico, l'Africa settentrionale, il Mediterraneo, l'Europa, eccetera. Quindi c'è un ribaltamento geografico dei visitatori e anagrafico dei visitatori molto importante. Poi vedremo a colpo d'occhio un grande cambiamento architettonico, nel senso che l'Expo di Dubai segnerà il trionfo di quella che si chiama l'architettura narrativa, cioè un'architettura molto scenografica, addirittura teatrale in certi casi, e quindi non più padiglioni espositivi come anche a Milano abbiamo visti, ma tutti padiglioni che raccontano una storia. Che storia racconterà l'Italia a questo pubblico così diverso? Abbiamo scelto di raccontare la bellezza che unisce le persone. Questa è il titolo della nostra storia ad Expo Dubai, che è un titolo che secondo noi interpreta in chiave italiana il tema di Expo Dubai, che è la connessione delle menti per generare futuro. Noi abbiamo pensato che l'elemento che distingue l'Italia da tutto il resto del mondo è la bellezza. La bellezza naturalmente non estetica o estetizzante, ma la bellezza italiana, e forse solo italiana, di saper produrre cultura, arte, scienza, tecnologia, manifattura, unendo in maniera armoniosa componenti molto diverse, territori, talenti, piccole e medie imprese con grandi imprese, persone che vengono dall'estero, che lavorano in Italia, quindi questa bellezza italiana che unisce le persone. Siete all'ascolto di Radio 24, questo è l'anno che verrà, vi stiamo raccontando i principali fatti che succederanno, accadranno in questo 2020. Io sono Enrico Paglierini, accanto a me c'è Anna Rita D'Ambrosio. Allora Anna Rita, adesso parliamo di cultura. Parliamo di cultura, abbiamo parlato già di Dubai e vi abbiamo portato ad Expo 2020 Dubai. Ci sono però delle altre città per le quali il 2020 è speciale e sono Fiume in Croazia e Galway in Irlanda, che dopo Matera e la bulgara Plovdiv saranno le capitali europee della cultura 2020. Noi in Italia abbiamo la nostra piccola capitale della cultura italiana, sarà Parma, e tu pochi giorni fa ne hai parlato con il sindaco della città, Federico Pizzarotti. Sindaco, un'occasione unica, un evento lungo un anno che bisognerà tenere vivo però. Ma un evento che durante quest'anno sarà sicuramente vivo, molto vivo, più di 400 eventi, tra eventi di livello nazionale e internazionale e livello di quartiere, perché la capitale della cultura non si rivolge solo verso l'esterno ma anche e soprattutto verso l'interno della città. Quindi una riqualificazione di diversi edifici monumentali all'interno della città, anche questo era uno degli obiettivi, partire dai distretti socioculturali, che è una nostra logica di programmazione fin dal primo mandato, quindi insomma io penso che le caratteristiche per un grande risultato ci siano tutte. Lo so che è difficile indicare un avvenimento a cui lei è legato di più, ma ce n'è uno. Ma di fatto direi la mostra nel luogo più importante, che è l'ospedale vecchio, che è un antico ospitale, proprio la mostra si chiamerà ospitale con l'H, come dire, a ricordo di una delle memorie della città dimenticate, un edificio monumentale importantissimo, chiuso da tantissimo tempo, che stiamo riqualificando da tutti i punti di vista, e sarà un nuovo centro nevralgico della città dal punto di vista culturale, dal punto di vista degli eventi. Dopo la capitale italiana della cultura, adesso parliamo di sport. Anna Rita, vuoi iniziare da vicino o da lontano? Perché parliamo di europei e di olimpiadi. Uno dei due eventi è vicino, l'altro è lontano. Un 2020 straordinario di sport. Sì. E quando parliamo di sport non possiamo non parlarne con il nostro Dario Ricci. Ciao Dario. Ciao, grazie per la fiducia. Ciao Dario. Senti, vuoi partire da vicino o da lontano? Dagli europei? Da romano parlo degli europei, degli europei di calcio per vari motivi. Sono quelli che arrivano prima in calendario. Calcio d'inizio della fase finale il 12 giugno e quindi appunto da romano, calcio d'inizio che si avrà a Roma, edizione particolare, questa che è diffusa su tutto il territorio europeo perché la UEFA ha voluto così celebrare i 60 anni della manifestazione. Si comincia il 12 giugno con Italia-Turchia. Siamo stati fortunati nel sorteggio perché oltre la Turchia ci è capitata la Svizzera e il Galles, squadre insidiose ma certo non le big del continente, quindi l'Italia di Mancini, che è arrivata dopo un percorso netto di tutte vittorie a qualificarsi e che avrà anche il vantaggio delle tre partite iniziali da giocare tutte a Roma, davvero può far bene. Siamo favoriti o non ti vuoi esprimere su questo? Ma io non sono scaramantico, però magari qualcuno degli ascoltatori in ascolto sì, quindi diciamo che sono sicuramente... Ci presentiamo bene. Sì, sono sicuramente in atto gesti apotropaici, okay, no? A questo tuo augurio. Diciamo che la squadra ha ben impressionato e può far bene, ecco. Ok, si gioca in tutti i principali paesi europei? Sì, sì, e tra l'altro altra novità, ci sarà la settimana finale che ospiterà le cosiddette Final Four a Londra, cioè ci saranno le due semifinali e la finale del 12 luglio che si giocheranno sempre a Wembley, e quindi Londra sarà la capitale del calcio mondiale. Tra l'altro Londra che potrebbe, europea, esatto, che potrebbe anche essere fuori dall'Unione Europea. Sì, sì, sì, magari chissà, lo vince l'Inghilterra. Però insomma, diciamo che lo sport abbraccia, va sempre al di là dei confini dell'Unione Europea, sì. Perché ad esempio c'è la Turchia all'interno, certo, dei, sì, sì, sì, dei assolutamente. Paesi europei. Beh, basti pensare che alle qualificazioni europee partecipa Israele per motivi politici, no? Che insomma, certo, lo sappiamo. Olimpiadi. E dopo ci sono le Olimpiadi nella mia Tokyo, l'estate del 2019 ho visitato, che era già in un grande fermento. Beh, come sapete, gli asiatici si sentono sempre sia orgogliosi di ospitare questi grandi eventi, e ne hanno molti in questo periodo. Basti pensare che poi anche le Olimpiadi invernali saranno ospitate prima volta nella storia nel 2022 da una città che già ha ospitato anche quelle estive, cioè Pechino. No, per dire, quindi c'è sempre il desiderio di far bene, ma anche si sentono anche un po' sotto esame, no? Quindi viste dagli occhi degli occidentali, quindi cercano di essere sempre iper precisi. Sì, è già tutto pronto. È già tutto pronto. Tokyo non sfugge a questa regola. Tokyo che torna a ospitare i giochi dopo l'edizione del 1964, la torcia olimpica si accenderà il 24 luglio, fino al 9 agosto sarà un'edizione straordinaria. Grazie Dario, buon anno anche a te. Grazie a voi, buon anno olimpico e buon anno di sport. Dopo lo sport, i colori, Maria Luisa Pezzali, bentornata, ciao Maria Luisa. Ciao Enrico, ciao Narita, ciao a tutti. Ciao, buon anno, dulcis in fundo Maria Luisa, perché i colori sono proprio l'anima, sono quelli che ci fanno sentire meglio e ci danno allegria. E ogni anno c'è un colore? Eh beh, ogni anno sì, c'è il colore dell'anno che viene deciso dal Pantone Color Institute. Pantone, lo ricordiamo, è l'azienda americana che ha sviluppato la classificazione dei colori, che è diventata uno standard a livello mondiale. Ogni anno decide il colore dell'anno e quest'anno è, attenzione, rullo di tamburi. Il classic blu. Siamo veramente il mio colore, che bello. Fantastico, un colore rassicurante, così lo ha definito lo stesso istituto, una stabile tonalità di blu intramontabile senza tempo, basta aprire l'armadio, ciascuno di noi troverà questa tonalità molto usata dai reali, è il famoso royal blu, sì, quindi reso famoso da Kate Middleton, Meghan Markle, la stessa Lady Diana lo usava moltissimo, è l'unico blu che può essere abbinato al nero, quindi, come dire, per la moda è un trionfo. Demo anche, se volete, il codice colore. Sì. Basta digitarlo su Google e ciascuno può farsi subito l'idea. Allora, 19-4052. Ma posso dire che Luisa è perfetta perché lei ha una maglietta blu sul nero? Blu sul nero? Cioè, sei avanti, ok? Sono coerente. Ma c'è un motivo per cui hanno scelto questo colore, per dare tranquillità a questo mondo impazzito? Sì, assolutamente. Ecco, come ogni anno è anche un messaggio politico la scelta del colore. Ricordate, l'anno scorso era questo Living Coral che si rifaceva alla biodiversità, quindi alla tutela del territorio, dei mari, e quest'anno è un colore appunto rassicurante, di pace. Molti hanno ricondotto quella che è l'era un po' della mindfulness, quindi della meditazione, della riscoperta dell'interiorità. Questo è proprio un po' l'anno di svolta in questo senso, anche nei consumi lo è, perché lo stiamo vedendo, c'è un ritorno ai classici, c'è una grandissima attenzione nell'anno delle mobilitazioni per il clima alla dimensione della sostenibilità, all'impatto sociale e ambientale dei prodotti. Quindi non si tratta solo di una scelta estetica, poi si può ricondurre a tutto, al design, alla moda, alla grafica, alle arti visive, molti stimoli ci arrivano da tutti i settori, però è anche una scelta coerente un po' con quello che viene definito il mood del tempo. Questo è l'anno di svolta, inizia un nuovo decennio e quindi è tempo di cambiare. E qual è il miglior modo per cambiare se non quello di affidarsi alle certezze del passato? Quindi il messaggio vuole essere anche un po' quello. Beh, un bel messaggio. Con questo messaggio noi salutiamo i nostri ascoltatori, salutiamo Maria Buon Luisa. Buon anno per... ancora la nostra Maria Luisa. Grazie. Pezzali. Auguri a tutti. Ahimè, siamo ai saluti, Enrico. Salutiamo i nostri ascoltatori, naturalmente auguriamo un buon 2020, bisogna sempre abituarsi quando si inizia l'anno. Ringraziamo anche Valeria Bernardi che ci ha accompagnato dalla regia in questa poco meno di un'ora di racconto di questo 2020. Anna Rita, ciao. Ciao e buon anno a tutti.